Radio Città Fujiko e il CRAP, Comitato Ricerche Associazione Pioniere, presentano Fumetti a Sinistra, il Pioniere, un mondo dentro a un balloon. Che mondo sarà se ha bisogno di chiamare Superman? Che mondo sarà, fa l'effetto del motore che non va. E bentornati a Fumetti a Sinistra, un mondo dentro il balloon. Quindi siamo entrati nel 2020, che è il centenario della nascita di Gianni Rodari, naturalmente il grande Deus Ex Machina con Dina Rinaldi del Pioniere, e sicuramente su Gianni Rodari quest'anno in Italia ci saranno mille iniziative per ricordarlo, giustamente a partire dalle sue grandi opere come La grammatica della fantasia, Favole al telefono, Il pianeta degli alberi di Natale, ovvero sia La torta in cielo. Da parte nostra invece ci concentriamo sul primo Rodari, il giovane cronista che sceglie la via delle filastrocche e dell'educazione per i ragazzi e che appunto con Carlo Pagliarini e Dino Rinaldi inventa questo intervento nelle masse giovanili della dopoguerra, che naturalmente erano estremamente povere sia di soldi ma anche di cultura, tenute lontane dalla scuola sia dai 5 anni di guerra e indottrinati nei 20 anni prima di fascismo. Allora anche noi apriamo questo centenario rotariano ricordandone con l'associazione Yucali l'incredibile carriera e poi ascoltando la voce di chi con Rodari ha collaborato per la televisione di Stato nelle TV dei ragazzi. Buon ascolto. Dizionario della fiaba di Teresa Buongiorno, che alla voce Gianni Rodari dice: scrittore italiano nato a Omegna Novara, vince il concorso da maestro nel 1941 e si dedica all'insegnamento solo per un breve periodo. Si unisce ai partigiani e, finita la guerra, si sposta a Milano, diventa giornalista, dirige l'Ordine Nuovo e fa il cronista all'Unità. Nel 1950 è a Roma, dove dirige Il Pioniere, il settimanale per bambini del PC. Nel 1958 entra a Paese Sera, dove tiene per 20 anni una nota politica di grande interesse, Benelux. Intanto scrive libri per bambini, pubblicati da Editori Riuniti e da Einaudi. Nel 1968 diventa direttore del Giornale dei Genitori. Il primo romanzo, Le avventure di Cipollino, è uscito a Roma nel 1951, a grande fortuna in URSS, dove nel 1992 gli viene dedicato persino un francobollo. La fama arriva nel 1960 con Filastrocche in cielo e in terra e Einaudi, con le illustrazioni di Bruno Munari. Geniali scarabocchi colorati. L'opera rappresenta una rivoluzione nei libri per bambini. Gli eroi non sono cavalieri e non ci sono streghe e maghi. I protagonisti sono le persone comuni. Il postino, il fornaio, l'emigrante, il ferroviere. Le favole si nascondono nel legno del tavolino, nel bicchiere, nella rosa, in attesa di un principe che le sappia svegliare. Seguono romanzi e racconti. Favole al telefono, 1962. Il pianeta degli alberi di Natale, 1962. Il libro degli errori, 1964. La torta in cielo, 1966. Tante storie per giocare, 1971. Novelle fatte a macchina, 1973. C'era due volte il barone Lamberto, 1978. E l'introduzione all'arte di inventare storie, La grammatica della fantasia, 1973, il suo libro capitale. Cura per gli Editori Riuniti l'edizione italiana dell'Enciclopedia della Favola, 1970, storie di tutto il mondo pubblicate in Russia, mentre già nel 1960 aveva curato l'adattamento delle fiabe di Hauff con il titolo La carovana. E nel 1970 vince il premio internazionale Andersen. Per la RAI ha curato trasmissioni radiofoniche, dialogando in diretta con i bambini che inventavano il finale delle sue fiabe. Tante storie per giocare, editori riuniti in 1974, e televisive tra cui Il paese di Gioca Gio nel 1969-1970. Tre settimanali con l'ambizione di offrire a tutti i bambini, anche ai più derelitti, notizie e giochi a quei tempi accessibili solo a coloro che vivevano in famiglie colte, sull'onda del programma TV americano per bambini Sesame Street. Con i suoi testi Sergio Endrigo compose canzoni diventate famose, tra cui Per fare un albero ci vuole un fiore. Due biografie importanti, Gianni Rodari e Einaudi 1990 di Marcello Argilli, che fu suo vice al pioniere, e Una storia, tante storie e Einaudi del 1992 di Pino Boero, che a 12 anni dalla sua scomparsa ha voluto offrire uno strumento completo per leggere e interpretare l'opera di uno scrittore talvolta troppo frettolosamente consegnato nel limbo della letteratura giovanile. Dopo di me gridava, verrà la fine del mondo. Dopo di me gridava, verrà la fine del mondo. Le parole protestarono, ma che grilli apre il capo. Si crede un punto e basta, e non è che un punto a capo. Si crede un punto e basta, e non è che un punto a capo. Un ospite al telefono, abbiamo con noi Teresa Buongiorno, autrice per ragazzi, storica, grande studiosa della letteratura per l'infanzia, che ha lavorato in televisione con Gianni Rodari. Ti abbiamo disturbata per farti raccontare in diretta il tuo incontro con Gianni Rodari alla RAI di fine anni 60. Come vi siete incontrati? Alla vigilia nel 67, lavoravo da 2 anni in televisione, perché era nata la seconda rete ero redattrice di un programma in fascia meridiana di varia umanità, di quelli che andavano in onda all'ora di pranzo. Era una novità dell'epoca. Io ero giornalista già da una decina d'anni, e quindi a un certo momento, quando la televisione per bambini a quell'epoca aveva pigliava i programmi dalla BBC, li traduceva in italiano e li faceva, metteva in onda, c'era un programma per i bambini tipo scuola materna che si chiamava Gioca Gio. Allora pensarono di fare una cosa tutta italiana, c'era un'aria nuova nel 68 che c'è stata oltre a una rivoluzione, come si dice, considerata anche erratamente negativa, c'è stata una grande rivoluzione pedagogica che era partita già in Francia e in Inghilterra negli anni precedenti, e quindi mi chiamarono, perché io prima di fare la giornalista avevo fatto vari mestieri, mi ero laureata in lettere, avevo fatto insegnato un anno letteratura italiana in un liceo classico, poi avevo fatto il servizio sociale perché era la novità dell'epoca, per, come si dice, per un'apertura verso il mondo, eccetera, ed ero stata un anno al tribunale minorenni, quindi pensarono che ero una persona adatta. Io ero rimasta un po' male, poi dissi va bene, accetto, a patto che mi facciate fare le cose come dico io, e dissi voglio Gianni Rodari, perché io quando facevo la giornalista per adulti e facevo la pagina dei libri su fotocalco, l'unico autore per ragazzi, due autori per ragazzi mi avevano colpito, uno era Rodari e l'altro era Emanuele Luzzatti, allora lo scenografo. Sì, sì. Allora Rodari aveva scritto Le filastrocche in cielo e in terra nel 60 per Einaudi, ma l'idea fu notato in tutto il mondo, le sue filastrocche erano rivoluzionarie, ma non sarebbero state notate se Calvino non avesse avuto l'idea geniale di farle illustrare da Munari. Munari era un designer d'epoca già abbastanza famoso, e le illustrò con gli scarabocchi di bambini, perché a quell'epoca si pensava che i bambini avessero in sé le potenzialità artistiche, cioè che l'arte dei bambini nascesse dal cuore, che l'infanzia fosse pura, che non ci fosse il male, eccetera. E così Rodari fece queste filastrocche. E io dissi: voglio Rodari. E lo accettarono. Rodari per un anno ha fatto con me, un anno o due mi sembra, un programma televisivo per bambini tipo scuola materna, che non esisteva ancora in Italia la scuola materna, e che si chiamò Il Paese di Gioco Gio. Come lavoravate insieme? Come preparavate le puntate appunto per Gioco Gio? Allora, intanto facevamo tre puntate a settimana, e l'abbiamo fatti per due anni, e io che pensavo che non fosse poi un così faticoso impegno, perché poi lavoravamo, come si dice, andavamo in onda tre volte a settimana, mi accorsi che era faticosissimo, perché dovevamo inventare l'argomento, poi prepararlo, metterlo in onda, io ero la curatrice, per cui dovevo controllare che poi il regista. Allora, con Rodari veniva in televisione quasi tutti i pomeriggi, la mattina lui lavorava, era giornalista a Paese Sera, e avevamo deciso di non fare dei copioni scritti, ma di fare una specie di canovaccio, un sommario, e poi ci avevamo due conduttori e dei vari personaggi che stavano in scena, che lavoravano, avevamo scelto in base alle loro capacità mentali anche di essere in sintonia con noi, e quindi lavoravano all'impronta, e quindi erano programmi molto coinvolgenti, avevamo, come si dice, un pubblico stupefacente. Ma fino a quando è andata in onda poi questa trasmissione, e secondo te cosa è stato travasato poi di quel modo di fare televisione nella TV dei ragazzi successiva? La cosa stupefacente era questa: uno, che non c'era un copione scritto, quindi non erano attori come di teatro che recitavano una parte già fatta; seconda, che noi si lavorava in gruppo, e quindi, come si dice, per decidere gli argomenti c'erano i due conduttori che avevamo scelto tra ragazzi che non avevano mai recitato, che però ci sembravano adatti, che erano in lista d'attesa, diciamo. C'era Marco Danè e Simona Gusberti, che erano due ragazzi di età universitaria, che mi sembravano abbastanza intelligenti da capire e da interpretare questa cosa. E poi avevamo deciso, Rodari aveva detto: basta di fare per i bambini piccoli, la famiglia è tutto. No, il mondo è tutto, per cui lui era entusiasta della televisione, come si dice, i mezzi nuovi, la comunicazione, la televisione che portava il cinema in tutte le case, Alberto Manzi che insegnava a leggere a quelli che non avevano mai saputo leggere. Alberto Manzi in quegli anni alfabetizzò 6 milioni di italiani adulti analfabeti, per cui attraverso delle lezioni televisive. E lui decise che avremmo fatto questo. Quindi noi ogni volta decidevamo l'argomento, e il suo credo di Rodari era la partecipazione, la collaborazione invece che la competizione. Tutti dovevano mettersi insieme per il bene comune. Questo era il suo ideale di giovane comunista. Thank you. La trasmissione prosegue analizzando due mondi che sono cresciuti parallelamente, si sono guardati, si sono invasi e hanno in qualche modo influito pesantemente l'uno sull'altro. Parliamo del fumetto, evidentemente, e del cinema. Per guardare le mutazioni e la continuità presente tra questi due universi, abbiamo interpellato Piero Di Domenico, docente all'Università di Bologna, articolista del Corriere della Sera, nonché critico cinematografico e ben conoscitore del mondo delle strips. Sentiamo appunto, secondo lui, cosa è cambiato dalla carta alla celluloide. Il fumetto ha in qualche modo vinto la sua battaglia con il cinema, nel senso che il fumetto ha imposto, ha fatto trasmigrare appunto tantissimi dei personaggi che sono nati, appunto, che sono stati disegnati, e oggi il cinema contemporaneo è fortemente debitore, no? Di questo mondo, di questo universo, al di là delle vicinanze dei due linguaggi che sono evidenti, ovviamente ci sono anche delle differenze altrettanto rimarchevoli, ma c'è anche una comune origine, cioè fumetto e cinema nascono in fondo più o meno nello stesso periodo, hanno un inizio anche molto simile, un percorso simile, perché anche da un punto di vista proprio della fruizione. No? I fumetti nascono come strip appunto sui giornali, che quindi non erano destinati a durare, no? Venivano in qualche modo, si esaurivano molto velocemente, così come la visione di un film, e quindi c'è tutto poi la fase successiva che ha portato invece a poterli conservare, a poterli rivedere e via dicendo. I cambiamenti ci sono ed è quasi inevitabile. No? Direi che è anche, come dire, fisiologico e necessario. I supereroi che ritroviamo nei grandi blockbuster cinematografici non sono gli stessi dei fumetti, spesso ci sono anche dei cambiamenti che sono duri da digerire per chi quei personaggi li ha amati e li ha conosciuti, li ha scoperti su un libro di carta, però credo che sia insomma inevitabile. Questo non mi turba e non mi scandalizza, anche perché spesso comunque il processo diciamo di riversamento è stato seguito anche da alcuni degli autori o degli sceneggiatori, insomma, che avevano realizzato anche la versione fumettistica. Sì, parliamo infatti per esempio di Frank Miller, quello di Sin City 300, anche di Alan Moore, quello di Vittori. Ma questa posizione di fumettisti e fan del cinema in qualche modo è una figura proiettata nel futuro oppure sono casi episodici, tuo parere? No, devo dire che ad esempio Miller è un esempio importante, interessante, perché è uno che ha lavorato, è riuscito a lavorare al meglio quando, come dire, ha portato il suo universo fumettistico, il suo mondo, la sua origine fumettistica. Quando ad esempio invece è stato chiamato, lui ha lavorato anche come sceneggiatore, ad esempio un paio di Robocop, se n'è andato anche un po' disgustato, no? Nel senso che non è riuscito a portare, insomma, quello che era il suo intendimento. Quindi no, credo che sia assolutamente un percorso che sia destinato a continuare, perché comunque oggi poi questo, come dire, questo fluire da un linguaggio all'altro diventa sempre più la quotidianità, sempre più ovvio, quasi banale, anche se naturalmente all'inizio come dire il cinema ha approfittato di questo, come dire, del mondo, dell'universo fumettistico in senso lato, dico non solo Marvel, Disney e via dicendo, perché naturalmente oggi, quando cioè con dei prodotti che sono sempre di più transmediali, crossmediali, cioè si riversano su tanti canali, avere già un, come dire, il disegno di un mondo, di un universo che è già costruito, è molto più comodo, molto più economico e molto più funzionale. storie, i fumetti guardati dal calendario. A cura di Gianluca Omigliacchi, della fumettoteca Alessandro Calegati, Calle. Topolino. 90 anni per Topolino, ovvero Mickey Mouse, inteso come personaggio fumettistico che nasce il 13 gennaio del 1930. L'esordio, di 2 anni prima, è nei cortometraggi animati, mentre le strisce pubblicate sui quotidiani americani lo battezzano all'inizio di quell'anno. Anche la prima sua apparizione in Italia è datata 1930, sulle pagine della testata L'Illustrazione del Popolo, nel mese di marzo. L'Italia è, inoltre, il primo paese ad intitolargli un giornale che, da allora, non ha mai smesso di uscire in edicola, accompagnando generazione e generazione di lettori con la sua costina gialla. 90 anni tondi per il fumetto del piccolo topo, ideato da Walt Disney e disegnato da un'infinità d'autori. Si tratta di una delle principali icone del Novecento, riconosciuta a livello planetario, l'icona pop per antonomasia. Un eroe con una personalità intraprendente e un'indole ottimista, socievole e leale, versatile e tenace, e spesso irrequieto. È nelle strisce fumettistiche che, tra le altre sue avventure, Topolino risolve i vari misteri senza aver bisogno, come nel caso degli altri eroi del fumetto, di forti muscoli, speciali armi segrete o eccezionali poteri da supereroe. Topolino trae le sue risorse migliori dall'intelligenza, che contrappone con successo alla brutalità degli avversari. Gentile e pieno di buonsenso, si trova con naturalezza sempre al centro dell'attenzione, confermandosi un leader per la sua città, Topolinia, e non solo. La scuola Disney italiana è una delle più prolifiche e rinomate al mondo. Il lavoro dei suoi autori è stato esportato e tradotto in tutte le lingue. Questa settimana è tutto, quindi l'appuntamento alla prossima puntata, ricordando che per ascoltare questa trasmissione in podcast l'indirizzo online è www.radiocittafugico.it oppure www.ilpioniere.org. Ciao a tutti. Radio Città Fujiko e il CRAP, Comitato Ricerche Associazione Pioniere, presentano Fumetti a Sinistra, il Pioniere, un mondo dentro un balloon. Che mondo sarà se ha bisogno di chiamare Superman? Che mondo sarà, fa l'effetto del motore che non va mai?